avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait la vague, son visage pâle, de femme fatale, qui me fut fatale, de femme fatale, qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux. Dato il profondo e pregnante interesse scientifico di questa trasmissione, devo dire, mettendo le mani avanti, come scrissi già ieri su Facebook, che è comunque sconsigliabile al pubblico particolarmente sensibile. Quindi, se in questo momento pensate di non poter sostenere un argomento così profondamente intriso di significati ancestrali come quello della passera, cambiate subito canale. Se pensate che questo sia un argomento che vale la pena di approfondire, telefonate all'800 24 00 24. Hai mai visto la serie Gossip Girl? No. Ne ho guardato un episodio ieri sera. Mi sono masturbata così forte a vedere Pam Badgley che mi si è rotta un'unghia. Scommetto che non hai un gamberetto in mezzo alle gambe, eh? Dai, Giulia, avanti. Che c'è? Mi metti a disagio con questi discorsi. Oh, sei piantala, lo sai che mi piace cazzeggiare un po'. Ma signor Henderson, non nello studio, come le viene in mente, brutto bambino cattivo? Non picchierei i pazienti. Mi rendo conto che l'incipit è stato crudo, ma bisognava entrarci dentro senza metafore, senza doppi sensi, senza allusioni, anche perché probabilmente ci dimenticheremo di questo argomento che ha fortemente, radicalmente, intensamente e saggiamente ispirato tutta la trattatistica politica degli ultimi 2 anni, diciamo. Non si parlava d'altro. Ora probabilmente non se ne parlerà più per molto tempo. Questa mattina nel mio quotidiano Free Press, che prendo all'entrata della metro Ottaviano, ho visto una grande vignetta che mi ha dato il senso e la necessità di affrontare questo argomento. Due signore si incontrano, una dice all'altra: il governo Monti ha detto che saranno prese nuove misure, e l'altra risponde: ma come? Non bastano più 90, 60, 90. Ognuno gli ha messo il nome suo! La passerotta, la mona, la picchia, la crepaccia, la fucchiacca. Pensa ai napoletani, a fucchiacca. È bellissimo, è focoso, la tacchina, la topa, la sorca, la patonza, la bernarda, la gnocca, la gnacchera, l'anonima sequestri, quelli medici, la vacina, la vulva. Oh, la vulva fa paura, Guarda che vulva! 7,40 turbo diesel! È una cosa! Ci abbiamo scherzato tanto, una volta si poteva scherzare, si poteva motteggiare, il fescennino era uno dei motivi ispiratori più profondi della satira. Poi se ne è parlato in maniera cupa, in maniera cattiva, in maniera vigliacca, in maniera arrabbiata. Si è perso il senso del fantastico e meraviglioso mondo che si nasconde dietro questo termine, che in realtà, in maniera probabilmente molto maschilista, diremo con un termine moderno, molto limitativa, ha circoscritto la donna, la femminilità, un universo così complesso, così misterioso, così indecifrabile, ma allo stesso tempo così pieno di attrattive, tanto che l'esistenza di ogni uomo di sesso maschile in fondo è informata alla conquista di questo universo, al mantenimento di questo universo, alla rassicurazione e rafforzamento della propria compattezza attraverso il filtro di questo universo. Beh, non se ne parla più con allegria, non se ne parla più con delicatezza, non se ne parla più con nostalgia, non se ne parla più con poesia. E quindi questa mattina vorremmo riprendere l'argomento della donna. La donna rappresentata nella sua essenza più profonda, che può sembrare volgare, può sembrare limitativo, può sembrare a volte anche lievemente rozzo e arcaico, ridurre la donna alla sua essenza concreta, alla sua essenza fisica, alla sua profonda radice di ogni nostra esistenza. Da lì noi nasciamo, la prima cosa che, di cui abbiamo la percezione tattile quando piangiamo e urliamo è quella cosa lì, e verso quello sempre noi andiamo. Evidentemente c'è una ragione profonda in questo, è inutile che ci scandalizziamo, non tocco nulla, non dico nulla che non possa essere raccontato anche all'innocenza di un minorenne, sto semplicemente raccontando, definendo il mondo attraverso qualcosa di antico, di profondo, di cui gli antichi hanno sempre avuto profondo rispetto. Voi immaginate che esisteva una credenza che le donne dei marinai, quando vedevano il mare tempestoso e la procella assassina nei confronti dei loro uomini che erano magari al largo con le barche per pescare e guadagnarsi la vita, si mettevano di fronte a quel mare impetuoso e alzavano le gonne e gliela facevano vedere, perché soltanto la forza di quello che loro avevano tra le gambe riusciva a calmare quelle acque impetuose. 800 24 00 24, prima di annunciarvi l'ospite di oggi, vi prego, datemi il vostro punto di vista, sia che voi siate uomini, sia che voi siate donne, sia che voi abbiate dimenticato di cosa sia, sia che voi non conosciate esattamente cosa sia, sia che voi ne siate assuefatti, sia che voi ne siate satolli, sia che voi ne siate tempestosamente nostalgici, raccontiamo esattamente cosa è per voi questa cosa. Certe donne vengono ritenute delle poco di buono e insultate dagli uomini se disinibite sessualmente. Io penso che dietro tutto ciò ci sia sicuramente l'invidia, siccome le donne potrebbero avere tranquillamente tra i 50 e i 100 rapporti sessuali al giorno, mentre i maschi si devono limitare ad un massimo di 3, se va bene a 4. Oltre a ciò, aggiungere anche il matrimonio, che se in origine era semplicemente una gabbia per le donne, adesso è divenuto tale anche per i maschi, per gli uomini, che infatti devono... Una delle cose meno sopportabili, secondo me, è il punto di vista degli uomini sulle donne. Gli uomini sulle donne non devono avere punti di vista, devono avere soltanto visioni. Il punto di vista di un uomo su una donna è noiosissimo, è stantio ancora prima di essere formulato. Di donne possono parlare soltanto le donne, secondo me. Questo lo dico ad onta di tutte le chiacchiere dal bar, di tutti i motivi ispiratori, di secoli e secoli di frequentazioni maschili. Soltanto le donne possono parlare di donne. Gli uomini le possono vagheggiare, le possono immaginare, le possono descrivere in maniera sommessa e sommaria, ma non potranno mai parlare di donne. Quindi, per parlare di donne, questa mattina ho in studio una donna. Alessandra Di Pietro, buongiorno. Buongiorno. Alessandra Di Pietro ha scritto un libro, un libercolo, Rosa Confetto, o Rosa Fucsia, o Rosa secondo di tutte i rosa che voi volete enumerare nella vostra esperienza personale, per ADD Editore, intitolato Godete. È un librettino che uno può portare nascosto, come quei calendarietti dei barbieri profumati con le donne nude che gli uomini nascondevano nel portafoglio, perché è un vademecum di alcuni segreti della femminilità. La chiave ispiratrice di questo libro è: godere conviene, rende molto e costa zero. Sei proprio sicura, Alessandra, che costi zero? Sì, sicuramente costa zero da un punto di vista dell'investimento del denaro. Ho pensato questo... Per voi donne, agli uomini costa moltissimo. No, si rovinano fortune su questo desiderio e questa ambizione. No, dovrebbe costare solo invece molto impegno, molta voglia di farlo, e soprattutto tanto divertimento. Mi era venuto in mente, quando ho scritto il libro, che era estate, che sarebbe stato un inverno di sobrietà, di austerity, di tagli e rigido, tante disgrazie, molto rigido. E allora? E allora a quel punto ho pensato che forse era necessario prevenire e cominciare già a dire fin da subito che è necessario assolutamente divertirsi. E quale migliore argomento a disposizione, quello del sesso, della sessualità, per divertirsi, stare bene, godere, avere un grande piacere e anche con poche lire in tasca. Insomma, se non ci sono soldi, forse ci può essere un po' più di fantasia. Allora, io devo subito sottolineare l'aspetto che per me è stato una frustata in un momento di poesia di questo libro, che è la tua dedica. Tu fai un libro sul godimento, che non parla altro di quella cosa che abbiamo allucinato all'inizio della trasmissione, però lo dedici a mio figlio Ettore e a mia figlia Agata. Perché fai questo gesto di mammismo stemperante la vigoria della passera di cui parli? Perché lo dedichi ai figli? Che c'entrano i figli? Ma non è vero, a parte che secondo me il mio essere mamma non stempera affatto la vigoria della passera. Ma anzi, sì, dai, per noi è un peso in più pensarti mamma, non vogliamo pensare. No, perché è un peso in più? Dovrebbe essere una gioia infinita. E poi l'ho dedicata ai miei bambini, perché magari con i termini dovuti. Tutto più è una sicurezza nella fase dello scaricamento. L'ho detto da un punto di vista molto maschile. No, non è una sicurezza. Invece, secondo me dovrebbe essere un elemento anche molto eccitante, un elemento di esperienza in più. E poi perché alla fine con i bambini si parla anche di tantissimi argomenti, anche di questi stessi argomenti affrontati qui dentro. Se ne parla in un altro modo, con un altro linguaggio, magari meno. Le apette e i fiorellini. No, le erbette e i fiorellini non tanto, però magari i coniglietti sì. Oh, bene, i coniglietti. 800 24 00 24, non occorre che vi spieghi ulteriormente qual è il tema del giorno, date il vostro contributo se avete argomenti per darlo, se no state zitti. Bianca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei ha argomenti per darlo? Sì, beh, credo. Che ride. Allora, io volevo partire, ho visitato quest'estate a Parigi il Museo dell'Erotismo. E cosa si vede? E in pratica è una sorta di excursus, insomma, sintetico, rapidissimo. Tra, sintetico in che senso? Erotismo sintetico? Nel senso che attraversare secoli, culture diverse, necessariamente deve essere riduttivo, non è che ci fosse materiale tantissimo, però sufficiente a farsi un'idea. Io avevo anche letto molte cose, quindi ero incuriosita. E con chi era andata? Era una gita, un pellegrinaggio? No, sono andata con mio marito e abbiamo visitato anche quello, oltre ad altri musei. Volete ridare un po' di spessore e vigoria al vostro matrimonio, stanco? Beh, oddio, non è che ce ne fosse bisogno, però non è stato inutile neanche. Quanti anni ha Bianca? Io ne ho 60. È sposata da quanti anni? 30. Ecco, lei sta confermando una delle tesi in un capitolo della nostra autrice Alessandra Di Pietro, Godete, c'è proprio un capitolo dedicato al piacere profondo dell'amore, della passione coniugale. Sì, però se volevo finire il discorso. No, lei la sto centellinando che tutti stanno lì con la lingua di fuori ad aspettare la descrizione degli oggetti. Descriva. Abbiamo visto appunto testimonianze dell'Eros nella cultura indiana, nelle culture andine, nelle culture latinoamericane, arrivati alla, anche naturalmente di le nostre tradizioni. Ad esempio, un esempio. All'800, ma mi dica l'esempio. Ecco, uno per tutti, no? Il tantrismo, che ne so, i templi di Kajurao, alcune sculture riprese da lì. Ecco, arrivati all'800, le uniche testimonianze sono quelle dei bordelli. Quindi il tema diventa l'800 hanno inventato il vibratore, scusi, è un elemento fondamentale, non lo so, fu inventato per calmare l'isteria femminile dai seguaci del dottor Freud, perché pensavano che quello fosse l'uso, poi divenne un succedaneo della mascolinità formidabile. Sì, vabbè, lei mi vuole far dire quello, però io avrei voluto fare un altro discorso e portare anche quest'altra testimonianza. Un'artista straordinaria che è Marina Abramo ha girato un video che mi pare si chiami Balkan Erotic, in cui ricorda proprio che nei paesi slavi, ma non ci sarebbe bisogno di andare là, basta vedere la nostra cultura, basta vedere la nostra provincia che ormai è, l'erotismo aveva una funzione addirittura divina. Quando pioveva, diceva lei qualcosa di analogo, quando c'erano i temporali che minacciavano di rovinare il raccolto, uomini e donne uscivano per la campagna, le donne mostrando il sesso, le teste e gli uomini accoppiandosi addirittura con la terra. Naturalmente questo, cioè, banalizzare invece il alla fine gli uomini facevano una buchetta per terra e aravano il campo e le donne facevano le tette, alla fine non è che poi c'era un grande incontro, a ciascuno il suo. Va bene, divertente però. Allora entriamo subito. Resti lì, è caduta, è morta, non m'ha descritto gli oggetti che vedeva. Conosco Alessandra Di Pietro, entra subito a corroborare con la tua sapienza e la tua dottrina quello che ha detto con grande pudicizia l'ascoltatrice Bianca, però interessante. Dici della fedeltà coniugale? Tutto la fedeltà coniugale. Allora, sul video che ha citato la signora, è un video bellissimo, e ricordo un'altra scena in cui si racconta che quando le mamme pensano che i loro figli possono essere in pericolo, si toccano la vagina e poi toccano il viso dei bambini, li mandano via e così saranno per sempre protetti. E questo è probabilmente fa capire anche perché i figli non vanno mai esclusi, ma vanno inseriti all'interno di un bel discorso aperto, franco, con il giusto linguaggio, nella forza e anche proprio nell'energia positiva della sessualità. Mentre per quanto riguarda la signora, che beata lei dopo 30 anni di matrimonio, non credo non che oggi bisogno... si lasciano spalmare tanto volentieri i ragazzini. Parliamo di tempi arcaici in cui era diversa anche la concezione del rapporto genitoriale, non c'era il telefono azzurro, oggi rischieresti la galera per fare una cosa del genere. Lo dico subito, perché ieri una signora ha chiamato dicendo che a casa ha reperti etruschi trafugati e subito ha destato allarme laddove queste cose vengono represse, quindi attenzione. Andiamo avanti. Invece però la signora Bianca, sessantenne, ha dato un immediato esempio della donna che tu descrivi, allucini in qualche maniera, di cui dai i confini nel tuo libro. Sembra strano, fuori standard, non certificato e raccontato dai media, che una donna sessantenne parli in maniera così divertente, allegra, goliardica, disinibita e anche corroborata da profondo studio e competenza di sessualità. Sì, è perché semplicemente la signora ha trovato un ambiente, ha trovato un momento in cui poteva farlo sentendosi a suo agio. Perché se ci sono dei contesti che mettono comode le donne, allora si scopre che ognuna di noi può raccontare moltissime cose su di sé. E una delle cose più interessanti che lei ha detto è proprio questa della sessualità all'interno di un matrimonio che dura da 30 anni, perché troppo spesso la libertà sessuale viene fatta coincidere con il libertinaggio. Quello è uno degli aspetti, ma la libertà sessuale è essere quanto più vicine all'autenticità del proprio desiderio, di quel che si vuole fare nella vita. E allora, se per tanti anni abbiamo vantato e abbiamo lodato quella che poteva essere una conoscenza orizzontale dei maschi, saltellando di fiore in fiore, la signora ce ne mostra un altro, che è quella di una conoscenza verticale, approfondita, una persona di fronte all'altra che dopo anni e anni e anni si divertono ancora a andare proprio nel profondo, scardinare i tabù, fare delle cose insieme. E poi ognuno di loro troverà un modulo, un registro, ed è bello poterlo raccontare agli altri, perché altrimenti andiamo avanti per stereotipi. Lo stereotipo è che le stanze da letto devono essere fatte solo per dormire dopo al massimo 3-4 anni di matrimonio. Allora, secondo me ciò che tu hai detto di fantastico finora rientra nella tua previsione di aver fatto questo libro in questo particolare nostro momento storico-politico. Questo è il momento comunque dell'austerità, del rigore, dell'aplomb totale. Noi abbiamo fatto tutta questa settimana dedicata al ritorno della grisaglia, ma non lo diciamo con spirito di rivolta o di osteggio. È questo il momento fantastico e meraviglioso in cui realmente si può riprendere il senso di questa nostra necessità, questo nostro diritto alla felicità, non inquinate dall'ideologia, perché noi siamo mossi fra due ideologie. La prima è quella è mia e me la gestisco io, le multiple penetrazioni o le multiple manipolazioni ostentate come momento di rivoluzione politica. Poi è venuto il tristissimo momento della patonza deve girare, che è altrettanto brumurico come effetto rispetto alla passione. E adesso in questo tuo libricino tu però riscopri ciò che può essere nuovamente rivisto, rivisitato e soprattutto acquisito come grande soddisfazione a costo zero, in un momento in cui anche i costi hanno il loro senso in questo particolare periodo. Era esatta questa mia lettura, secondo te? Sì, sì, è assolutamente così. E anzi, a me la grisaglia, l'austerity, la sobrietà, ci credo, ma relativamente. Anzi, ti dirò che da quando è sparito, da quando c'è stato, da quando non c'è più tutti i giorni questo format parapornografico della sessualità del Presidente del Consiglio esposta continuamente, mi sembra che tutti siamo ritornati un po' più liberi di potersi esprimere liberamente su questo argomento, perché è stato per un anno un vero strazio. Qualunque cosa si diceva sul sesso, sulla sessualità, sulla libertà femminile, sul mettersi nude, sul fare l'amore in tre, in quattro, in cinque, in qualsiasi cosa, bisognava in qualche modo rapportarsi con questo format che ci veniva dal Bunga Bunga, dove che era continuamente. Lo faccio, ma non sono come lui. Lo faccio, ma perché lui lo può fare anche. Ecco, tutto questo finalmente ce ne siamo liberati. Sì, si è tornati al fatto che c'è un signore con un doppio petto grigio che si occuperà della politica, e lo seguiremo senza avere la necessità di dover seguire tutto il resto. Tutto il resto ci pensiamo noi. Io non mi sento affatto sobria, ho dei capelli rosso fuoco e mi sento allegra, forse più di prima. Mi sono spiegato meglio, dico, è un momento di indubbia e oggettiva sobrietà istituzionale, è il momento in cui si può riprendere in mano il tuo libretto rosa e riappropriarsi a pieno diritto, assolutamente sì, soggettivamente, sul proprio format individuale, di tutto quello che tu chiami godimento. Paola, è d'accordo? Assolutamente sì. E io intanto ho notato una cosa: questa donna mentre parla sorride, si sente il sorriso mentre parla. E allora, perché la sto fotografando con Instagram e la sto pubblicando su Facebook. No, questo, ecco, la gioia che comunica. E questo volevo dire, che le donne hanno conquistato la gioia della sessualità, soprattutto perché si sono sganciate dalla riproduzione. La sessualità femminile... sì, è un discorso vecchio di 50 anni. No, non è vecchio di 50 anni, perché non è andato di pari passo con quello maschile. Non è andato di pari passo con quello maschile perché non si sono sganciati dalla riproduttività. Sono genitalizzati, nel senso che il loro piacere è finalizzato, non sono riusciti a sganciarlo, non si sono inventati gli atti concezionali, ad esempio. Quindi la gioia, la creatività, la possibilità, la potenza di un corpo femminile che può godere da solo, che può godere in tanti modi anche quello senza maschile, riprodurre, guardi, in questo anche quello maschile alla fine Ne abbiamo lunga esperienza. Ma perché esiste la prostituzione maschile? Perché esiste la prostituzione? Altrimenti esisterebbe anche a quei livelli macroscopici, e nella storia che continua fino adesso esisterebbe anche quella femminile. Ma adesso, proprio adesso che tutti parlano di tristezza, di cose eccetera, sarebbe proprio il momento di dargli sotto, quello che stiamo dicendo. Appunto, ma noi l'abbiamo già praticato, lo facciamo già. Sì, ma non scusa se mi permetto Paolo, poi devo dare la linea all'informazione della borsa, sono molto più importanti. Non ostenti con troppa fierezza il suo aver raggiunto livelli al di là della media, perché questo di solito è sempre foriero di qualcosa che in realtà non è proprio come uno lo dica. Dica, è giusto, è bello, è tranquillo, ma non dica noi siamo arrivati in cima alla vetta, voi siete ancora lì alle pendici a guardarci vogliosi. Non è proprio esattamente così, non si può generalizzare sempre anche nel mesto, sconfitto e macero mondo degli uomini. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Era Kurt Harrington. Uno sbaglio che avevo fatto a 26 anni. Non provavo più niente per Kurt. Dopo anni e anni e anni, finalmente lo vedevo per quello che era. Un verme egocentrico, egoista, ma senza dubbio la migliore scopata della mia vita. Kurt! Ciao, che ci fai qui? Ciao, bimba. Ti vedi con una persona fissa? Non proprio. Che fai più tardi? Non avevi deciso di non rivolgermi più la parola? Chi ha parlato di parlare? Mentre mi rivestivo, mi resi conto che c'ero riuscita. Avevo appena 800024, questa sarà forse l'ultima trasmissione della mia carriera, o sarà la prima di una nuova fulgida carriera. Finalmente abbiamo deciso di riparlare di quello di cui, con maniera stanca, vecchia, vizza, al limite della necrofilia, si è parlato in tutte le più austere, più importanti, più politicamente corrette testate italiane. Ne riparliamo con un rinnovato spirito di curiosità, con la vivacità del seminarista, del chierichetto che finalmente può occhieggiare ciò che accade dietro il confessionale. Lo facciamo veramente ridando vigore, esistenza a questa fantastica categoria dell'esistere che è stata sin troppo tempo maltrattata. Maltrattata, abbiamo già detto, da due tipi di attacchi, l'uno da sinistra che l'ha definita come oggetto politico, come brand, come icona della rivolta. Non c'è niente da rivoltare, non si rivolta, grazie a Dio, rimane sempre lì. E un altro che l'ha svilita, è una sorta di plastico delirio moltiplicabile all'infinito, che ha praticamente molto rese inservibili delle giovani generazioni, che adesso cosa faranno? Tutte queste ragazze sono gonfiate, siliconate, iperstrizzate, mutate, rimarranno lì poverine, le metteranno in un isolotto, le metteranno in una specie di monastero, come una volta mettevano le povere infelici che avevano fatto delle brutte scelte nella vita, e rimarranno lì spierando in qualche altra maniera, perché ahimè dal vortice del silicone e del botox non si torna più indietro. Parlo di questo fantastico argomento con una fantastica donna, si chiama Alessandra Di Pietro, che ha scritto Godete, ADD editore, un piccolo prontuario, rosa shocking, piccolo a tenere nascosto nella giacca, da tenere nella grisaglia, in questi periodi in cui tutti ci chiederanno austerità, avremo almeno una via di fuga, e ripeto, una via di fuga, non confondete, ben definibile attraverso la più antica e la più economica fonte di godimento, perché come dice Alessandra Di Pietro, godere conviene, rende molto e costa zero. Alessandra, so che stasera andrai a far divertire Maurizio Mannoni, sarà una molto difficile operazione, ma stai cominciando a diffondere questo tuo libro, vedremo anche l'effetto che fa, sarà un test molto interessante. Come li vedi te gli uomini? Come li vedo, dipende dagli uomini, alcuni li vedo molto bene, altri li vedo molto male, li vedo molto interessati alle donne, devo dirti che li vedo molto interessati alle donne. È controtendenza quello che stai dicendo, eh? No, secondo me non è controtendenza, è che siamo veramente infarciti di stereotipi e adesso è arrivato il momento in cui ce ne possiamo liberare. E la capacità di accudimento estrema che hanno i trans, come diceva l'esimio Marrazzo, che fa parte comunque di una filosofia molto praticata a tutti i livelli, alti e bassi, anche altissimi. Sì, quello è un pezzo di verità, è un pezzo di verità che però mi piacerebbe restasse l'esperienza della persona che l'ha detto e che non venisse ideologicamente esteso a tanto altro. Probabilmente quella persona ha trovato un modo di essere confortato dalla figura di una sua amica trans, ma non perché era trans, ma perché magari era una donna. Ma cos'è un trans? Un surrogato di donna, un uomo femminilizzato, una donna mascolina che per sbaglio era nata col pisello. Dal tuo punto di vista, cos'è un trans? Guarda, dal mio punto di vista perché è interessante questa. Non vorrei estendere e creare la categoria delle trans. Le trans sono delle persone che, non trovandosi bene con loro stesse dentro questo corpo, fanno un percorso per cercare un'altra riappropriazione. Conosco delle trans che sono delle donne magnifiche, simpatiche, non necessariamente accuditive, altre invece che hanno uno spiccato senso della relazione materna con gli uomini, proprio, anzi, quello aspetto è quello che gli interessa di più. E conosco invece delle donne che prima erano uomini e che hanno una capacità straordinaria di avere su entrambi i sessi una visione fulminante, perché sono stato l'uno e sono state l'altro. Quindi mi sembra che io trovo comunque fantastico, al di là di ogni scelta individuale, questo rimescolamento di quello che viene considerato l'ordine della natura. La natura, l'aspetto più naturale della natura è riproporsi continuamente, rimischiarsi, rimettersi in discussione. Massimiliano. Buongiorno. Da che punto di vista parla lei? Dell'esperto, dell'anelante, del conoscitore, del nostalgico, del deluso? No, deluso no, perché sono felicemente sposato e vivo una storia bellissima. Niente, io il cambiamento che sta nelle donne appena eseguono, cioè appena, come dire, diventano mamme, aprono la famiglia, problemi, abbandonano quel modo di essere da fidanzati, da vogliose, lo abbandonano. Io mo parlando. Sono quelle che vogliose non sono mai, non è... No, da fidanzate, da ragazze vogliono l'esperienza, vogliono giocare con loro stesso, vogliono conoscerlo. Certo, Massimiliano, io non vorrei darle un dolore, ma anche da sposate spesso lo fanno, non è detto che lo faccia anche col marito. Ecco, però evidentemente zone, oppure ambienti, perdono quella situazione, secondo il mio padre. So che non lo perdono, perché ci stanno tanti che lo hanno trovato in situazioni diverse, però secondo me la maggior parte sono più cose delle mamme, vedono più la vita delle mamme, allora si tengono più a ritirarsi, un po' più a... Non lo vedono più con quella godura, quella voglia, quella strappa. Allora, Alessandra, il nostro Massimiliano esprime un'istanza molto praticata dal genere dei mariti infelici, dei mariti contenti ma non appagati profondamente. Le donne, una volta messe in casa, una volta messe i bigodini, una volta tolto il reggicalze per il collan contenitivo, smettono di essere quelle pantere assatanate che tante soddisfazioni ci davano. È così. Allora, non so, nella mia esperienza. Ma dillo con delicatezza. Nella mia esperienza posso dire che in parte è così e in parte non è così. Allora, è così perché probabilmente questa signora a cui fa riferimento, o comunque la storia a cui fa riferimento, Massimiliano. È una storia bellissima, ha detto. Tu hai detto che è una storia bellissima. Sì, sì, è una storia bellissima. Però allora diciamo che se questa moglie, questa signora viene messa in casa dove deve badare a tutto, deve badare a un bambino, non ha mai un attimo di tempo per farsi una doccia, non possiamo anche pretendere che la sera sia una panterona avida di sesso e pronta a sperimentare con il marito. Allora probabilmente è questo l'aspetto su cui bisogna lavorare, sollevare le donne dalla fatica, perché sono sicura che diventare mamme non vuol dire automaticamente di per sé interessarsi solo ai propri figli, significa che quella sfera prenderà un sacco del nostro tempo, tantissime delle nostre energie, e che quindi se ci fosse una grande mano d'aiuto, una condivisione, fare delle cose in modo che poi io posso farmi una doccia, mettermi su una gepier come si deve e magari andarci a fare una scenetta, potremmo ritrovare anche questo senso. Poi può a volte succedere. C'è anche un problema logistico, i figli dove li metti durante questo teatrino? Stanno lì e ti guardano. I figli dormono, Ma quando urli nel questa piacere pessima... ti sentono poi. Ma no, c'è questa pessima abitudine di mettere i bambini a letto tardi, i bambini devono andare a letto presto dopo il carosello, se non c'è il carosello lo si inventa e si manda comunque a letto prestissimo, in modo che poi si possa trovare un modo per stare insieme. Massimiliano, in parte è appagato. Perché secondo me è data, nel senso che non riesco a trovare il termine. Forse non ci siamo capiti, io parlo anche di donne manager oppure di donne che sono a livello di una situazione, non si esprimono, cioè anche avendo raggiunto la parità del sesso, la parità della vita, la parità di tutto, perdono a un certo punto, perdono quella rabbia che avevano, oppure che o ce l'hanno dentro a regresso, perché... Beh, anche l'età molte volte crea dei problemi, a un certo punto uno si stufa, si stanca, non c'ha più voglia, è fisiologico, cioè non viviamo ancora nel retaggio passato in cui con le pompette e con i farmaci si riesca a far tutto, a un certo punto uno cede le armi e dice basta, mi occupo di letteratura, di collezione di farfalle. Magari bisogna solo farlo in un altro modo, scoprire un'altra storia. Ma io penso di non essere uno che non riesce a capire il modo come farlo o come cosa. Io parlo proprio dell'essere donna quando non lo so, io non solo per... No, ma io l'ho capita, Massimiliano, l'ho capita, è un cruccio di tanti uomini, a un certo punto si ritrova vicino a qualcosa che non è più quello che aveva fatto fremere in passato, accade. Beh, ma anche magari anche il marito non è esattamente quello che ti aveva fatto fremere in passato, certo, sì. Lo conosci dentro casa, lo conosci lì un po' noioso, il sovrappeso ascellare, esatto. La caccola a luciare, che non è che sia poi un motivo di poesia, le unghie che ti tagliano la notte perché non se le ben tagliate, ti lasciano segni, sono cose che lasciano profonde tracce nella vigoria matrimoniale. Quando si è connu, quando si è reconnu, perché se perdre de vue, se reperdre de vue, quando si è retrouvé, quando si è réchauffé, perché se séparé? Melog 2.0. Potrebbe dirci la natura del suo rapporto col signor Boss? Ho fatto sesso con lui per circa un anno e mezzo. Mi piaceva farci sesso. Non aveva paura di sperimentare. Mi piacciono gli uomini così, che mi fanno godere. Mi ha fatto godere moltissimo. Ha mai intrapreso pratiche sadomasochistiche, signorina Tramell? Con esattezza che cosa aveva in mente, signor Corelli? Lo ha mai legato? No. Non lo ha mai legato? No. Johnny amava troppo usare le sue mani. Mi piacciono mani e dita. 800240024, questa mattina parliamo del piacere, del riappropriarsi della gioia dell'incontro, parliamo di sesso, ne parliamo in un momento in cui se ne può finalmente parlare senza essere additati, senza essere messi in una lunga trafila di comportamenti compulsivi, ripetitivi, riprovevoli e socialmente dannosi. Lo facciamo con Alessandro Di Pietro, che ha scritto un vademecum fatto apposta per tenere nascosto nella tasca della giacca, godete, edizione ADD. Riprendiamo laddove ci siamo interrotti prima, perché è il punto che in realtà è più rivoluzionario del tuo libro, la riscoperta di spazi gratuiti, e il gratuito è importante in questo momento in cui il rigore, la ristrettezza e il sacrificio viene chiesto da ogni parte, nell'ambito di rapporti anche consolidati. Il piacere non è soltanto la trasgressione, non è soltanto l'uscita fuori porta, non è soltanto la fuga domestica, ma può esserlo anche, non detto in maniera consolatoria, ma realmente e robustamente, un rapporto consolidato. Dici qualcosa di più su questo? Sì, a proposito della gratuità, vorrei dire che forse l'unico prezzo veramente da pagare è quello da pagarsi reciprocamente, perché... essere generosi l'uno verso l'altro, anche in questo caso, è gratuito, ma è uno scambio di una moneta molto profonda. Per quanto riguarda invece la profondità della relazione e dello stare bene insieme, credo che questo sia un punto assolutamente interessante che ci possiamo permettere proprio perché per tanti e tanti anni abbiamo avuto anche in qualche modo la necessità di essere libertine, perché bisognava riscattare anni e anni in cui le donne avevano dovuto fare quello che si chiedeva loro di fare, quello che ci si aspettava loro di fare, e quindi c'è stato un grande momento liberatorio in cui il libertinaggio è stato anche una grande è stato scambiato con la libertà sessuale. Allora, oggi possiamo dire che innanzitutto sesso e sessualità non coincidono. Il sesso è un aspetto della sessualità. La sessualità è proprio una fonte di energia propositiva, creativa, grande, che possiamo scambiare, che ci fa diventare vive e piene di energie positive. E che questo lo possiamo fare anche all'interno delle nostre relazioni, credo che sia anche un altro grande momento di liberazione proprio per tutte. Il godimento ci libera tutti. E questo credo che sia straordinario, e dobbiamo ricominciare a dircelo proprio in questo momento, contro le invocazioni di sobrietà, austerità e così via, che continuano a fare un unico errore: scambiamo la politica, il governo della cosa pubblica, con la vita privata. Ecco, se le due cose sono tenute separate, secondo me siamo tutti un po' meglio. Io, amiche che dilungano all'estremo, non so, l'allattamento di un figlio per evitare di ritornare in quel momento in cui devono continuare a essere donne. Questo è un tipo, risponde a quello che dice l'ascoltatore prima, dice no. Mia moglie da quando è madre, da quando è moglie, non è più quella di prima. Sono ferocemente contraria. No, sono d'accordo anche io, lo sai, perché il libertinaggio ci ha un po' stufato, anche perché, diciamo la verità, poi sarò qui smentito, non è che il libertinaggio corrisponda in realtà al piacere concreto, reale, esplosivo, è un piacere almeno per l'uomo cerebrale, benissimo, metto un'altra tacca nel mio Winchester, sono un figo, ma in realtà quando vai a vedere poi lì non è che c'hai questi ricordi attaccati ai sensi come ventose. Un vecchio amico libertino ai tempi che ero studente mi diceva, guarda, e era uno che gli dava sotto, le meglio sono quelle che fai con la moglie. Io vedo la moglie, una donnettina tranquilla, sono la moglie di Fantozzi, dico, ma mi stai prendendo in giro? Vedrai, le meglio sono quelle che fai con la moglie. Gigliola, eccomi qua. Intanto volevo fare i complimenti perché oggi lei ha trattato l'argomento con una piacevolezza tale che dovrebbe continuare a farlo. Ma ogni tanto lo faccio, guardi, non è che spero almeno di continuare a farlo per un po' di tempo. Sì, e poi penso che regalerò il libro per Natale a molte persone che conosco, che sarà un vademecum molto importante e utile, e mi ringrazieranno poi. Perché a lei non gliela trattano con piacevolezza, Gigliola? Ma diciamo che io purtroppo sono vedova. È il momento migliore, scusi, non, con rispetto parlando. Ma... Diciamo che non ho occasioni. E perché non ho occasioni? Vabbè, perché purtroppo diciamo le cose vanno... Guardi, io non voglio riaccendere il suo dolore, però le dico, nell'immaginario maschile la vedova è al numero 3-4, dopo la suora e dopo non so che altro. Allora speriamo di essere arrivati... Uno immagina questa lussuria accumulata nei secoli, quindi... Anche perché la sessualità, come diceva prima la signora che è presente, che non ricordo il nome, diciamo secondo me la sessualità... Alessandra Di Pietro. Ecco, la sessualità è gioia, no? È piacere, è condivisione... Ma come fa una vedova quando ha desiderio? Scusi la domanda, se vuole risponde, se no no. Diciamo che niente, non succede niente. Ma questo non la limita, scusi, la vita continua. No, ma però voglio dire, spera sempre che succeda qualcosa. Ma se non si muove, sta lì ferma, che vuole che succeda? No, non è che io non mi muovo, è il mondo intorno che si muove male, cioè non sono neanche poi, diciamo... insomma sono piacevolmente d'aspetto, di carattere e tutto quanto, no? Vabbè, comunque ma lei si dimostra propensa all'intima d'azione o fa come quelle che dicono, guai te se osi, porta ancora al collo il medaglione con lo scomparso? No, nel senso che io dico che io ho fatto il mio dovere quando lui era vivo. Certo, adesso e nello credo. Stesso tempo diciamo tutto, però voglio dire, adesso lui deve pensare a me, non sono io che devo pensare a lui. La fedeltà postuma non esiste nemmeno. In civiltà arcaiche ormai. Vabbè, io le faccio mille auguri, Gigliola, spero che leggendo il libro godete, e con questo suo appello disperato e pieno e denso e pregno di significati, qualcuno che la conosce ne approfitti. Moreno, avrà un fantastico 2012. Sì, speriamo. Moreno, sì, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo dire una cosa. Io sono rimasto colpito moltissimo da questo erotismo che spesso esprime anche la vita mistica, no? Sentivo questi racconti di queste suore mistiche, insomma, che parlano di questo Cristo, di questo... Io sono convinto che questo sia un pieno godimento. Sì, ma queste sono interpretazioni, però scusi, è un'interpretazione, quello che è l'acme dell'estasi mistica legata al piacere, però non sono così... Non è così combaciante, diciamo che il momento dell'estasi è un momento che assomiglia molto, certe rappresentazioni di Santa Teresa d'Avila sembrano una donna nel momento del massimo piacere, però io ho molto rispetto per quell'attività e non voglio dire, perché non credo sia così, che siano un surrogato l'attività sessuale, anche perché ai tempi delle grandi mistiche erano modo e maniera e ogni tanto non è che si negassero ciò che noi pensiamo così lontano dalle loro attività. Patrizia. Sì, buongiorno. Ecco. Io volevo portare l'accento, cioè il discorso su un argomento più, diciamo, animale, cioè il comportamento della donna, come del resto dell'uomo, molto legato alla presenza di ormoni. Ormoni che regolano la nostra vita sessuale e che molto spesso ci comandano, quindi il fatto di rilevare che molto spesso le donne quando diventano madri cambiano atteggiamento in confronto della loro attività sessuale, secondo me è dovuto al fatto che gli ormoni non ci sono più. Ma domandiamoci perché una donna operata, tristemente operata, basta. Guardi, sì, Paola, la firmo che siamo sulla sigla. Lei apre un discorso che meriterebbe un'altra trasmissione, però fatta a Nicoletta Carbone. Entriamo in un campo fisiologico organico che non ci interessa in questo momento. Io non voglio sapere che esistono gli ormoni. Voglio sapere che esiste qualcosa che mi fa alzare il sopracciglio e mi fa mettere le narici al vento. Grazie Alessandra Di Pietro, grazie a quelli a che voi. Hanno ascoltato. Buona giornata. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.